Il contadino scansa fatiche. C'era una volta un contadino in un villaggio. Viveva con sua moglie e i suoi figli. Il contadino però viveva diversamente da tutti. Ogni mattina si svegliava, faceva un bagno al pozzo e tornava a casa. Prendeva il suo cibo e tornava a dormire. Il contadino aveva davvero tutto dalla vita. Aveva una grande fattoria. Coltivava vari tipi di frutta e anche di verdura. Ma aveva una pessima abitudine, perché il contadino era un uomo davvero, davvero molto pigro. La sua famiglia era sempre preoccupata perché non lavorava mai e dormiva tutto il giorno. Ha intenzione di dormire di nuovo? Dai, sveglia! Non devi andare alla fattoria oggi. Il raccolto andrà sprecato. Ma tutti gli sforzi per svegliarlo erano inutili. Il contadino aprì un occhio, sorrise e si riaddormentò. Oh, non serve a nulla provare a svegliarlo. Andrò io stessa alla fattoria a vedere se tutto va bene. Poco dopo, i bambini cominciarono a fare rumore nella casa. Questo svegliò il contadino, che iniziò a giocare con loro. Mentre la moglie del contadino stava tornando a casa, incontrò un saggio e lo invitò ad andare a casa con lei a mangiare. Oh, saggio! Non ho avuto l'onore di incontrarti per molto tempo. Devi venire a casa con me. Per favore, dammi l'opportunità di servirti. Sei molto generosa, figlio mio. Il mio Dio pregherà per te. Andiamo. Quando la moglie del contadino tornò a casa con il saggio, vide... Grazie a Dio, è sveglio. Guarda chi è venuto a casa nostra. Non appena il contadino vide il saggio, andò immediatamente fuori ad accoglierlo. Il marito e la moglie allora lo servirono molto bene. Gli diedero cibo da mangiare. Dopo il pasto, poi, il contadino si sedette e iniziò a massaggiare i piedi del saggio. Il saggio era molto soddisfatto del loro comportamento e del loro spirito. Quindi chiese al contadino di esprimere un desiderio. Dimmi, figliolo, cosa vorresti? Esaudirò qualsiasi tuo desiderio. Saggio, solo un desiderio, di non dover mai più lavorare di nuovo. Vorrei qualcuno che facesse magicamente tutto il lavoro. Va bene, esaudirò il tuo desiderio. Ma ricorda, dovrai tenerlo occupato tutto il tempo. Non dovrai mai lasciarlo riposare. Come dici tu, saggio, non lo dimenticherò. Dopo aver accettato di esprimere il suo desiderio, il saggio benedisse il contadino e se ne andò. Non appena se ne fu andato, apparve un grande mostro. Maestro, i tuoi desideri sono ordini per me. Dimmi, cosa posso fare per te? Va bene, fai una cosa. Vai e innaffia la mia fattoria. Il mostro svanì immediatamente. Il contadino si sentì subito molto sollevato. Ora non doveva proprio fare niente. Ma dopo un po' il mostro riapparve. Maestro, il lavoro che mi hai chiesto di fare è finito. Cos'altro devo fare? Cosa? Hai innaffiato l'intera fattoria in così poco tempo? Che altro lavoro ti darò ora? Devi darmi più lavoro, maestro, altrimenti ti mangerò. Adesso il contadino era davvero spaventato. Così immediatamente diede un altro lavoro al mostro. Corri, vai veloce ad arare l'intero campo. Sì, maestro, farò il lavoro e tornerò presto. Quando il mostro se ne fu andato, il contadino si calmò e pensò: ci vuole un sacco di tempo per arare un intero campo. Nel frattempo andrò a casa a mangiare. Il contadino si sedette con la moglie e i figli per mangiare. ma proprio allora il mostro ricomparve. Eh? Sei già tornato? Hai arato l'intero campo? Sì, maestro. Cos'altro devo fare? Dammi più lavoro! Lavoro, lavoro, lavoro! Che lavoro posso darti? Vieni adesso, vieni qui e gioca con la mia testa! Pronunciate queste parole, il mostro iniziò subito a giocare con la testa del contadino. Oh, è impazzito! Qualcuno lo fermi, mi romperà la testa altrimenti! Cosa faccio ora? Che lavoro posso dargli? Come faccio a liberarmi di lui? Se ti vuoi liberare di lui, io ti posso aiutare. Ma prima mi dovrei promettere una cosa. Sì, dimmi in fretta o la mia testa esploderà. D'ora in poi farai tutto il tuo lavoro da solo. Oh, ok, sono d'accordo. Ora, per favore, aiutami a sbarazzarmi di lui. Ascolta, fai una cosa. Smetti di giocare con la sua testa. La coda del nostro cane Moki è storta. Va a raddrizzarla. Il tuo desiderio è un ordine. Lo farò subito. Divertita nel vedere la faccia di suo marito, la moglie iniziò a ridere. Ti avevo avvisato. Sapevo che un giorno l'avresti pagata per essere stato così pigro. Ora capisci? Aha, va bene, ho avuto ciò che meritavo. Ma raddrizzerà la coda di Moti e tornerà presto. Cosa farò allora? Ma di cosa stai parlando? Qualcuno ha mai raddrizzato la coda di un cane? Fidati di me. Passerà tutto il suo tempo a cercare di farlo, ma non ci riuscirà mai. Mi hai salvato oggi. D'ora in poi farò tutto il mio lavoro da solo. Non lo affiderò mai più a nessuno. Cos'è successo? Perché ridete tutti? Oh, niente. Stiamo ridendo tutti del pigro contadino. Sì. Quindi ora sapete tutti cosa si ottiene a non fare il proprio lavoro? Ora ditemi, siete tutti d'accordo di fare i compiti a casa da soli? O vorreste che qualcun altro li completasse magicamente per voi? Mai!